vostro orecchio. Radio Zin di disinformazione musicale. Eccoci in studio, nuova puntata del Terzo Orecchio da un Mr. Soft, da una Nardò nebbiosissima. Non si vede a un palmo di naso questa sera, mai vista una nebbia così da queste parti. Dunque, abbiamo detto nuova puntata, io inizio a preparare qualcosa per voi, ci siamo salutati e vi lascio subito con il primo pezzo. Questa sera una selezione un po' new wave, ascolteremo qualcosa che in realtà avevo preparato per la festona di Radio Flow che si è tenuta alle officine Cantelmo, però problemi di sovraffollamento del mixer non mi hanno permesso di far ascoltare nulla, quindi questa sera vi sorbirete un po' di musica abbastanza tenebrosa. Iniziamo con qualcosa di leggero, andiamo con gli Interpol, vai! Rieccoci in studio, questi erano gli Interpol, Slow Hands. C'è un piccolo cambiamento nel programma. Dunque, fino ad ora avevamo sempre parlato di una notizia. Ops, un attimo di singhiozzo. Avevamo dunque, dicevamo, avevamo sempre parlato di una notizia e poi mandato un pezzo inerente alla notizia di cui appunto si parlava. Però da oggi cambiamo un po' la porta, i pezzi verranno mandati, come si suol dire, ad libitum, cioè a mio gusto e piacere. Si finisce la musica. Ovviamente, se c'è la possibilità, magari di tanto in tanto ascolteremo magari qualche pezzo legato ad un album, ad un'anticipazione, qualche chicca, qualche anteprima, eccetera. Ma in linea di massima la tracklist si svincola dalle notizie che presenterò di puntata in puntata. Quindi dicevamo, musica che piace, quindi questi sono i Crisma e il pezzo è Black Silk Stocking 1976 Italia. E questi erano i Crisma. Scusate ancora, un po' di tosse, il freddo, la nebbia e tutto il resto a cui non sono abituato. Dicevamo, questi erano i Crisma, l'album era Chinese Restaurant. Grandissimo disco che vi consiglio, se non l'avete ancora ascoltato, di andare a recuperare. Quando si dice che non ha fatto niente di buono, in realtà vuol dire che non si è saputo andare a cercare bene. Torino, Italia, 1977. Iniziamo ora con le consuete notizie, iniziamo a snocciolare un po' di news. Come sempre, le notizie più ghiotte sono offerte dai fratelli Gallagher. Questa settimana è toccato a Liam Gallagher, che in giro in Italia per radio eccetera eccetera ha rilasciato un'intervista in cui ha affermato che mondo al momento, con tutti gli Oasis che non si chiamano Noel, praticamente su dei nuovi pezzi. Ha detto esattamente così, tutti gli Oasis che non si chiamano Noel, il gruppo sarà composto in realtà da tutti i suoi ex compagni eccetto il fratello, la band però non si chiamerà Oasis, ormai gli Oasis sono una questione passata, sono ormai una storia chiusa, praticamente la dovrebbe anche iniziare ad andare in giro a fare i primi concerti, e ha inoltre specificato anche quali sono stati i motivi della rottura. Ha detto per l'esattezza che ha rotto una chitarra, ma non addosso a Noel, non si trattava nemmeno di una chitarra di Noel, bensì di una chitarra della band. Quindi, parole testuali di Liam, era un po' come se l'avessi pagata anch'io. Lui aveva trattato male una delle mie chitarre di mia proprietà che mi aveva regalato mia moglie e ho voluto rendergli il favore. Insomma, questi sono i motivi, l'arcano mistero dietro lo scioglimento degli Oasis. Noi intanto andiamo ad ascoltarci un po' di musica. Dal 1977 passiamo al 2009. La band si chiama The Phantom Band. L'album è l'album del 2009 è Checkmate Savage. Andiamo ad ascoltare quindi questa band che ho scoperto per caso da poco. Siamo sempre nell'ambito post-punk. The Phantom Band. Never cast another curse. Hejsan, alla lyssnare, porta brame. Radio Flo Best. Ritornato in studio, probabilmente qualche piccolo problemino col microfono da quanto leggo in chat, speriamo che si risolva da solo perché io non ho idea di che cosa possa essere, insomma preghiamo tutti insieme perché questo problema si risolva per intercessione divina. Parliamo dunque di altre notizie, vediamo un po'. Sembra che nel prossimo anno i Durutti Column, vale a dire Vinnie Reilly, realizzeranno un disco e un live intitolato A Pian to Wilson. Si tratta in realtà di un tributo a Tony Wilson, il leggendario boss della Factory, a cui è stato tra l'altro dedicato un film 24 Hour Party People, che vi consiglio di recuperare, ne vale effettivamente la pena. Niente, dunque, dicevamo, verrà rilasciato quindi questo disco e questo live, che comprendono una serie di composizioni che Reilly aveva fatto ascoltare a Wilson mentre questi era ricoverato in ospedale prima della sua morte nel 2007. Sembra che il lavoro dovrà uscire il 24 gennaio 2010, ovvero non una data casuale, bensì il giorno del 32esimo compleanno della Factory. Per ora sono tra l'altro confermate anche due date di presentazione di questo disco, il 14 a Manchester e il 31 gennaio a Leicester. Niente, i Durutti Column erano, secondo le parole di Reilly, e poi in effetti era così, la band preferita da Tony Wilson. In effetti considerava i Durutti Column come una sorta di figli adottivi della Factory. Erano stati la prima band a firmare per l'etichetta mancuniana. Dunque, cosa ascoltare se non un pezzo? Non abbiamo i Durutti Column, bensì un pezzo che avevo preparato, guarda caso, per la serata di sabato. Sono i Joy Division rifatti dai Massive Attack. Il pezzo è New Down Fates in una versione, secondo me, pari quasi all'originale. Anzi, direi pari all'originale. Direction of fortuna perché mi ritrovo nella cartella di M3 preparati per sabato sera anche un pezzo del nuovissimo CD dei Twilight Sad. E tra l'altro oggi sono andato a pescare una notizia che riguardava proprio i Twilight Sad. Saranno meno felici i componenti della band, perché cosa è successo? È successo che in settimana i componenti della band scozzese sono stati praticamente fermati sul loro tour bus mentre si spostavano tra il luogo di un concerto e l'altro da un posto di blocco della polizia, o meglio di quello che sembrava essere un posto della polizia, un posto di blocco della polizia, dislessia, portami via. E dunque sono stati fermati quindi da questi poliziotti con tanto di pistole e distintivi d'ordinanza. Non fosse altro però che i poliziotti non erano dei veri e propri poliziotti, ma erano dei ladri che hanno preso praticamente tutti i contanti della band, hanno nascosto le chiavi del furgoncino, del bus della band, e sono andati via con i loro passaporti, che poi hanno buttato in autostrada. I Twilight Sad hanno pubblicato proprio di recente, credo tra ieri e oggi, una lettera destinata ai malviventi, in cui dicono di essersi divertiti veramente tanto, insomma, di contattarli nuovamente per mettersi d'accordo e ripetere il giochino. Insomma, la lettera era effettivamente su questi toni, ma era ironica, perché poi in chiusura riservava un saluto tutt'altro che affettuoso ai malviventi. Probabilmente il fattaccio non si capisce dove è avvenuto dalla lettera, però guardando un po' le date su MySpace, la band è in giro in Germania, quindi in realtà il fattaccio dovrebbe essere avvenuto dalle parti della Germania. Noi andiamo ad ascoltarci allora qualcosa dei Twilight Sad, Made to Disappear, dall'ultimo disco Forget the Night Ahead. Niente, non so che dire ai Twilight Sad, non so che si dice in queste situazioni. Ascoltiamo il pezzo e basta. Siccome io sono padrone di tutte le radio, non c'è nessuno che fa sentire queste canzoni. Radio Flo, libera radiofonia tra amici. Yeah. Stai ascoltando Radio Flow. Radio Flow Best. Mi si chiedevano in apertura di puntata i contortions, ma non avevamo i contortions, quindi spero ci si possa contattare comunque di Tina Jesus and the Erks. Lydia Lunch, qualcuno in chat l'ha appena definita una nevrotica, non sapete quello che dite. Parlare di notizie, parliamo di questa band comparsa da poco ma già new sensation del 2009. Dovrebbero chiamarsi XX, insomma il nome 2X, sul CD omonimo X, una X sola, cioè appunto l'unico segno è quello di una X, quindi presumo sia questa la giusta pronuncia. Cosa è successo? È successo che da quartetto che erano sono diventati un trio, perché la tastierista Baria Qureshi ha abbandonato praticamente la band, se n'è tornata a casa mentre erano in giro per Londra, non c'è stato modo di farla rinsavire, non è voluta assolutamente ritornare nel gruppo, è stato però confermato dal frontman della band James Smith che nulla praticamente cambierà, ovvero gli XX non si scioglieranno, non si cercherà nemmeno, anzi mi correggo, il frontman si chiama Romy Medley Croft, non si scioglieranno, bensì il lavoro che veniva svolto da Baria Qureshi sarà svolto ora da Jamie Smith, che appunto da multistrumentista si accollerà anche il compito di suonare le tastiere che fino a prima erano compagna di band. Vedremo ora, ci sono molti dubbi sull'evoluzione del suono, dato che si trattava già di qualcosa di molto scarno, molto minimalista. Vedremo cosa comporterà questo ulteriore cambio nella formazione. Cos'altro? Altra notizia abbastanza ghiotta, interesserà agli amanti del dub: Flying Lotus ha rilasciato sul suo MySpace 4 nuovi pezzi. Periodo molto prolifico per il perché infatti ha reso disponibili per i fan ben 4 canzoni, tra le quali un rifacimento di un pezzo di Lil Wayne. Si tratta, per l'esattezza, di I Feel Like Dying, un pezzo dedicato alle droghe. È stato definito uno dei migliori pezzi sulle droghe del decennio. Dunque, se siete interessati, potete ascoltare i pezzi direttamente sul MySpace di Flying Lotus. Noi parliamo da troppo tempo, andiamo ad ascoltare qualcosa. Vediamo un po', ascoltiamo un altro bel gruppo italiano di recente formazione, sono gli Schoenwald, il pezzo si intitola Slow Milk, l'album è Amplified Nature, album che vorrei sentire per intero, ma per il momento non sono ancora stato in grado di trovare in giro, ho soltanto dei pezzettini sparsi. Questa appunto è Slow Milk, noi andiamo ad ascoltarla, sembra abbastanza interessante. Around this land. settimana ritornano su Radio Flow con Roommate, il lunedì e il giovedì alle ore 22. Affronteranno vari argomenti e ci saranno tanti ospiti e chiacchiere. Non mancate! Allora, è già tardissimo e questa settimana abbiamo fatto il fioretto di non sforare perché altrimenti ci tagliano, come è successo la settimana scorsa, ci sfumano, anzi non ci sfumano nemmeno. Parliamo quindi velocemente di Badly Drawn Boy, a quanto pare ben presto, ovvero il 14 dicembre dovrebbe uscire il nuovo disco. Si tratta ancora una volta di una soundtrack, d'altronde Badly Drawn Boy non è nuovo a queste cose, dato che aveva già musicato la pellicola di About a Boy, il film con Hugh Grant tratto dal libro di Nick Hornby, che tutti voi avrete letto, ne sono sicuro. Dunque, sembra che questo nuovo CD intitolato Is There Nothing We Can Do dovrebbe essere la colonna sonora di The Fattest Man in Britain, film di oscuri registi e oscuri attori. Ho cercato in giro, ma insomma in Italia si tratta di gente per il momento non nota, almeno a quanto ne so io. Sembra comunque che anche in questo caso il disco non sarà una vera e propria colonna sonora, ma sarà un CD che si presterà, come è avvenuto per il precedente caso simile, a fungere da accompagnamento musicale anche al film per intero. Altro disco nuovo in arrivo è quello dei Damn Crooked Vultures, grande band insomma di All Stars, del calibro quindi di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, di Dave Grohl dei Foo Fighters, che torna dietro le pelli, del bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones, che hanno rilasciato un disco il 16 novembre, il nuovo disco il 16 novembre, ma prima di rilasciare il disco, qualche giorno prima, hanno permesso ai fan di ascoltare per intero i brani su YouTube. Insomma, ognuno cerca di sfruttare le nuove tecnologie, i nuovi mezzi messi a disposizione dalla rete come meglio può. Dicevamo, dobbiamo affrettarci. Un pezzo che avevo preparato anche in questo caso per sabato sera era il pezzo che più ci tenevo a far ascoltare. Niente, ora ve lo sorbite voi, fatti vostri. Questi sono i New Ironia e il pezzo è una cover dei Pixies. nella notte di Radio Flow c'è spazio per l'approfondimento politico e la musica jazz. La notte di Radio Flow è blu, blue side di Buzz. E abbiamo ascoltato i New Ironia, band bolognese di Danilo Maso Masotti. Tra l'altro vi consiglio di andare a cercare il suo blog, in fondo il programma parte sempre dall'idea di sfruttare le notizie che si leggono in giro sulla rete, quindi non stiamo sforando, non stiamo praticamente uscendo fuori tema. Andate a cercare il blog degli Umarels se volete farvi quattro risate. Noi ci spostiamo in Italia, parliamo un po' dei Carpaccio, band romana che a quanto leggo dovrebbe aver messo a disposizione in streaming, in download nella piattaforma Bandcamp tutti praticamente i dischi della produzione, compresi i tre brani del recentissimo, anzi del fresco di uscita EP Irreale mi dà l'asma. Io sono riuscito a scaricare in pratica soltanto i dischi del Reale mi dà l'asma, ma non sono riuscito a trovare link ai CD precedenti. Se magari voi ci riuscite, lo scrivete in chat se riuscite a trovare il link. O magari ho capito male io, la mia mania di scaricare mi ha portato a fraintendere le parole. Niente, scherzavo, io non scarico assolutamente nulla. Parliamo dei Calorifer, The Calorifer is very hot. Anche loro hanno un disco in uscita, il disco è Evolution on Standby. Hanno praticamente anche un tour da iniziare, però hanno avuto una bella pensata, perlomeno una pensata originale. Se non avete avuto modo di vedere mai i The Calorifer is very hot dal vivo, ve ne dispiacete, potete oggi fare un'offerta su eBay. Chi vincerà l'asta, cosa avrà in premio? Avrà la band che va a suonare a casa sua, direttamente a casa sua, dove volete, nel soggiorno, in garage, in giardino, sul terrazzo, oppure la potete portare al pub a suonare. Insomma, chi vince avrà per l'appunto la band che si sposterà appositamente per lui. Le uniche spese da sostenere, dicono gli stessi caloriferi, sono quelle di un panino e di una birra, oppure di caviale e champagne, insomma la scelta è vostra, e di un letto per i tre musicisti, o meglio tre letti, uno a testa. In più uno dei caloriferi a scelta vi regalerà anche una copia del CD o del vinile del nuovo album. Il link per l'asta lo trovate sul sito del collettivo We Were Never Been So Boring. Il sito è www.nbb.blogspot.com. Qui c'è il sito per l'asta che è iniziato il 14 novembre. Al momento la cifra è ancora bassina, solo 13,50 euro quando ho controllato l'ultima volta, ma manca ancora una settimana, quindi sappiamo le aste si accendono negli ultimi minuti. Noi andiamo ad ascoltarci un'altra band, anche questa italiana, anche questa di qualche annetto fa, per l'esattezza anni 80, per l'esattezza destinata sempre a chi dice che l'Italia non ha prodotto niente di buono. Sono i Neon e il pezzo è Information of Death. Non ci posso credere, questa settimana probabilmente riusciremo a restare nella nostra ora o al massimo a sforare di 2-3 minuti massimo. Vi snocciolo le ultimissime notizie. Flash news, gli Arcade Fire sarebbero a New York per registrare. Non si sa se le tracce andranno a finire in un nuovo disco, non c'è nulla di stabilito da quanto ha affermato Richard Reed Parry, polistrumentista della band canadese. Non c'è quindi nulla di stabilito né per un nuovo album né per un nuovo tour, ma comunque sembra che il frontman Wim Butler fosse già in fase di scrittura dei pezzi del nuovo disco, quindi bisogna verificare se effettivamente il viaggio a New York può essere collegato a un disco in arrivo. Parliamo del disco della settimana di Indie for Bunnies, consueto appuntamento, e poi ci salutiamo con l'ultimissima notizia. Disco della settimana è il nuovissimo lavoro dei Flaming Lips, Embryonic. La recensione è di Matteo Benni, noi leggiamo qualche riga. Praticamente Matteo Benni dice che il mal di testa ascoltando Embryonic arriva, è una certezza. La psichedelia fa questo effetto. Si può dire forse che sia il suo obiettivo primario, sovraccaricare il cervello di stimoli sonori fino a farlo lamentare per il troppo lavoro. A volte il risultato è fastidioso, quando invece ogni particella si combina nella giusta e implacabile sequenza, il mal di testa diventa un affare piacevole. Andiamo avanti, leggiamo un po'. La scaletta si divide tra momenti eterei, rarefatti e galleggianti che guardano verso i primi anni di carriera dei Pink Floyd, e numeri in cui spunta fuori senza compromessi l'anima kraut dei Flaming Lips, suoni grassi e ruvidi e tempi martellanti. Noi ascoltiamo il pezzo di apertura del disco, Flaming Lips Convinced of the X, ma prima vi volevo parlare, in realtà ho sbagliato a lanciare il pezzo, perché prima vi volevo parlare della lista dei migliori album del decennio secondo NME, il magazine inglese. Siamo infatti in chiusura di decennio, il 2009 è l'anno delle classifiche, non solo quindi dell'annata, dei 12 mesi, ma degli anni che vanno dal 2000 fino ad oggi. La classifica tanto agognata vede in testa gli Strokes con Is This It. Poi ci sono i Libertines con Up the Bracket e quindi i Primal Scream con Extreme Nature e XZ bla bla bla, insomma tutto il disco con la serie di lettere che si pronuncia in quel modo. Seguono gli Arctic Monkeys con Whatever People bla bla bla, poi Yeah Yeah Yes, Fever to Tell e così via. Insomma, la trovate sull'NME, andate a spulciarvela e stabilite se siete d'accordo o meno. Noi siamo invece arrivati in chiusura di programma, un saluto a tutti gli ascoltatori all over the world. Questo era il terzo orecchio, ci si ascolta nuovamente la settimana prossima, consueto orario alle 21. Lasciamo la linea a Roommate con, credo ci sia Roommate dopo, spero di non sbagliare, con Tone e Brasi da Bologna. Snowflow, una trasmissione quasi interamente dedicata alla cura fisica e mentale dei nostri e dei vostri amici a cinque zampe. Una trasmissione da cani e per cani, per un pedigree sempre al top. Dallo studio di Radio Flow in Contrada Cafari, in prossimità dello Student Village di Tuglie, Snow Flow, ogni giorno alle ore 15, naturalmente su Radio Flow. Piccola correzione. Ho fatto una brutta figura di merda perché subito dopo inizierà Melted Tone probabilmente, con Tone. In realtà avevo trasformato il nome in un inglesismo, fa niente, insomma vi lascio con Tone e con i Flaming Lips.